713. Pasticcio a sorpresa. Latte 1 litro. Farina di riso grammi 200. Zucchero grammi 120. Burro grammi 20. Uova numero 6. Sale una presa. Odore di vaniglia. Prendete una cazzaruola e nella medesima, poco per volta, versate le uova, lo zucchero, la farina e il latte, mescolando via via, onde non si formino bozzoli, ma del latte lasciatene addietro alquanto per aggiungerlo dopo se occorre. Mettete la cazzaruola al fuoco e girando il mestolo continuamente come nella crema, cuocete il composto aggiungendovi prima di levarlo il burro, la vaniglia e il sale. Lasciatelo ghiacciare e poi versatelo in un piatto di metallo o in un vassoio di terra che regga il fuoco, disposto in modo che faccia la colma. Copritelo con la pasta frolla numero 589, ricetta B o ricetta C. Fategli qualche lavoro per bellezza, doratelo col rosso d'uovo, cuocetelo al forno e servitelo caldo, spolverizzato di zucchero a velo.